La crisi geopolitica in Ucraina tra Mosca e Kiev hanno sempre risvolti energetici per l'Europa, visto l'Italia e la sua dipendenza dal gas russo è assolutamente centrale come argomento di discussione, ma soprattutto di posizione politica tra due governi che in questo momento trovano davvero grossa difficoltà nell'instaurare un dialogo, la stessa che poi si ripercuote anche nei rapporti tra Washington e Mosca. Quindi assolutamente la crisi energetica che stiamo vivendo è in parte raccontata dalla crisi ucraina, e leggere dall'altra parte la crisi ucraina come soltanto una crisi energetica sarebbe sbagliato, sarebbe un modo per sminuirla. Di certo a noi italiani, consumatori appunto del gas naturale russo, questo evento, questi avvenimenti sono centrali per quello che poi andremo a pagare in bolletta alla fine del mese e dell'inverno, e in questo 2022 che non si prospetta come un anno in cui l'energia sarà buon prezzo per noi. Quindi già ora, come dire, questa crisi sta condizionando il prezzo dell'energia, in particolare del metano? Sì, già sui mercati internazionali, ieri sui mercati europei, la valutazione del gas è salita di quasi il 20% in un solo giorno, dopo settimane in cui il prezzo in realtà era in discesa per diverse motivazioni, diverse cause, prima tra cui un inverno abbastanza mite in Europa e una disponibilità in eccesso di gas naturale che proveniva dagli Stati Uniti e che normalmente è indirizzato verso i mercati dell'Asia orientale. Ce lo siamo procurati pagandolo a caro prezzo, questo va detto, perché gli indici europei hanno registrato davvero prezzi folli tra la seconda metà di dicembre e i primi giorni di gennaio, per poi tornarsene appunto in picchiata a prezzi più ragionevoli, ma di certo insostenibili nel lungo periodo. E quello che pare più minaccioso è proprio che, a prescindere dalla stagione, a cui normalmente si associa una volatilità più o meno marcata dei mercati energetici, per tutto il 2022 ormai si stanno stabilizzando prezzi uguali, indipendentemente dal mese e dalla stagione di riferimento. Questo vuol dire che i mercati rimangono assolutamente incerti sulla possibilità che vi sia maggiore disponibilità di volumi di gas in Europa, e quindi i prezzi rimarranno uguali anche in estate, in primavera, quando normalmente i consumi nel nostro continente calano. Qualche giorno fa abbiamo appreso che il presidente statunitense Joe Biden sta cercando di esercitare pressioni sull'emiro del Qatar per aumentare le forniture di gas naturale verso l'Europa in caso di conflitto bellico. E quella potrebbe essere, come dire, una fonte alternativa di approvvigionamento per l'Europa? Ma è già una fonte di approvvigionamento per l'Europa. Il Qatar è uno dei maggiori esportatori di gas naturale liquefatto verso il nostro continente. Il punto è che appunto questo gas viene liquefatto e viene trasportato in Europa attraverso navi gasiere, e i suoi volumi non possono in alcun modo sostituire i volumi importati e l'importanza anche dei gasdotti che vengono dalla Russia. Normalmente questi volumi sono semplicemente mossi da incentivi che si presentano sul mercato. Se questi non ci dovessero essere, questo gas che normalmente il Qatar esporta sia verso l'Europa ma anche principalmente verso i mercati dell'Asia orientale continuerà ad andare in questa direzione. L'unica cosa che potrà cambiare questi flussi sono appunto i prezzi del mercato, ma questo vuol dire che i consumatori europei dovranno pagare questo gas a carissimo prezzo. C'è anche da dire che la flessibilità del Qatar nel produrre o meno gas in eccesso rispetto a quello che già ora produce ed esporta è limitata, perché il Qatar è uno dei maggiori produttori esportatori di gas naturale liquefatto, è stato recentemente sorpassato proprio dagli Stati Uniti come primo produttore mondiale ed esportatore mondiale, e il Qatar mira tra il 2026 e il 2027 a ritornare in prima posizione, staccando gli altri produttori attraverso appunto nuovi progetti che sta implementando in questo momento. Ma ci vorranno ancora 4-5 anni e nulla lascia presagire che da qui ad allora le tensioni geopolitiche sia fra Stati Uniti e Russia e fra Europa e Russia, ma anche fra Stati Uniti e Cina, non influiscano proprio su questo mercato e sui prezzi che noi andremo a pagare da qui ad allora.